Un altro morto per il freddo, situazione ancora molto critica in alcune zone d'Italia, oltre 40.000 case ancora senza luce. L'accordo sembra vicino in Grecia per il salvataggio, ma i mercati sono ancora molto prudenti. In Siria altri attacchi sulla città di Homs, ancora decine di vittime. Ciclismo e doping, 2 anni di stop per Contador. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Iniziamo con un'ampia pagina dedicata alla neve, al freddo in Italia. Poche ore fa un camionista è stato trovato morto all'interno del suo mezzo in Abruzzo, lungo la superstrada dell'Iri. Il tir era incolonnato da ore in direzione Sora. E sono segnalate altre 2 vittime, ma non è ancora chiaro se siano da ricondurre proprio al freddo. Allora facciamo il punto della situazione in diretta con Adriana Fracchia. La situazione sicuramente è complicata, complessa. Buongiorno Adriana. Sì, buongiorno, sì, è davvero molto complessa, anche perché per le prossime 24-36 ore sono previste altre nevicate su Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Marche e Campania. Il freddo siberiano, rassegniamoci, durerà almeno fino a San Valentino. Scuole e uffici pubblici sono chiusi a Roma e in molte altre città. E partiamo dalle situazioni più disagevoli. Allora, al nord, per quanto riguarda la Liguria, i disagi legati al freddo di questi giorni e alle gelate conseguenti hanno provocato sulla costa e in particolare nel capoluogo ligure interruzioni all'erogazione idrica in vari quartieri di Genova, dove la temperatura nella notte ha raggiunto anche i meno 7. In Trentino Alto Adige una valanga è caduta in Alta Val Venosta e si è abbattuta su un gruppo di sci alpinisti che sono riusciti a liberarsi e sono rimasti feriti leggermente. A Trieste la bora è tornata a soffiare con forte intensità, nella notte le raffiche hanno sfiorato i 100 km orari e a Milano la temperatura è scesa a meno 10 gradi questa notte, una delle notti più fredde degli ultimi 10 anni. Questa è la situazione al nord, però la situazione più difficile è al centro Italia, giusto? Sì, infatti le situazioni più problematiche sono lì, la situazione è molto difficile ancora nella provincia di Frosinone, lo ha confermato anche il ministro dell'interno Cancellieri, problemi anche nell'alta valle dell'Aniene con molti paesi in difficoltà per la neve che da 4 giorni paralizza gran parte del comprensorio. Un lungo blackout ha costretto al gelo per circa 3 giorni migliaia di cittadini e non si telefona in diversi paesi montani intorno a Subiaco, sempre in provincia di Roma. 4° giorno di nevicate nelle Marche e ad Ancona, dove le scuole restano chiuse per liberare le frazioni isolate dalla neve. Stamani è intervenuto anche l'esercito. E in Abruzzo la situazione più difficile è in alcune zone della Marsica, dove 30 abitanti nella località di Marano sono ancora isolati. Gli alpini del 9° reggimento di Stanza L'Aquila continuano a operare senza sosta. Situazione drammatica poi nel Montefeltro, nella provincia di Pesaro Urbino, dove la neve ha raggiunto i 2-3 metri nelle località dell'interno e il rischio che le frazioni isolate già raggiunte dai soccorsi vengano nuovamente sepolte dai cumuli di neve portati dal vento, anche perché è ricominciata a nevicare. Andiamo poi al sud, dove la neve cade su Potenza e qui sono state chiuse le scuole in parte della Basilicata, chiuso per il maltempo lo stabilimento Fiat di Melfi. Fiocchi bianchi sulla 3 Salerno Reggio Calabria, in particolare nel Cosentino, come anche su Sila, Pollino e Aspromonte. Il Consiglio del Centro Nazionale di Viabilità del Ministero dell'Interno ha detto che sconsiglia di viaggiare sulla 3, solamente consiglia di viaggiare se è strettamente necessario. Temperature rigide in tutta la Puglia, con spolverate di neve anche a Foggia, dove sono chiuse le scuole, con disagi si registrano sulle strade della provincia di Foggia a causa del ghiaccio, numerosi veicoli in panne sulla provinciale 130 e sulla statale 17. Nevica anche a Napoli, sulla collina dei Camaldoli e in Irpini, ad Avellino e provincia, scuole chiuse, uffici pubblici chiusi per tutta la giornata di oggi e si registra in provincia di Benevento un soccorso, pare sia stata un'odissea a mettere in salvo questa 50enne che viveva da sola in località Bocca della Selva, dove la neve ha superato abbondantemente il metro d'altezza. Piove invece in Sicilia ininterrottamente da ieri su Palermo, disagi più grossi a Mondello, dove sono saltati i tombini di alcune strade, nevica in Sardegna, nel Nuorese e a Sassari, in particolare si registrano disagi sulla statale Sassari-Olbia. Un ultimo dato riguarda invece i blackout, alle 12 di oggi sono 42.000 le utenze rimaste senza elettricità al centro-sud, lo ha riferito Enel, sono state riattivate 17.000 utenze rispetto a ieri. Grazie dunque ad Adriana Fracchia per questo quadro. Adesso andiamo a Roma, che tra disagi concreti e polemiche sta lentamente tornando alla normalità. Dopo l'emergenza, Roma è una città che cerca di tornare lentamente alla normalità. Oggi sono chiusi scuole e uffici pubblici, ma domani dovrebbe esserci la completa ripresa delle attività. Autobus e taxi tornano a circolare mentre il sole scioglie il manto bianco e tanti cittadini con le pale hanno liberato le strade. Ma i disagi non mancano perché restano molte strade interne, cortili e marciapiedi di intere zone della capitale ancora inagibili a causa del ghiaccio. E pronto soccorso registrano un record di cadute. Solo ieri tra le 8 e le 20 sono state trasportate 358 persone, 30 ogni ora. E ancora l'emergenza rifiuti con cassonetti stracolmi che non sono stati ripuliti. E si guarda già ai prossimi giorni. Le previsioni infatti parlano di rischio gelata con temperature che andranno sotto le zero e con l'ipotesi che per il prossimo fine settimana possano esserci a Roma nuove nevicate. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Interviene il governo per mettere un freno alle polemiche sul maltempo a Roma e allo scambio di accuse che ha movimentato il fine settimana fra il sindaco Alemanno e il capo della Protezione Civile Gabrielli. Basta liti sull'emergenza neve, nelle prossime settimane si verificheranno le responsabilità, dice il ministro dell'Interno Cancellieri, che invita le istituzioni a comportarsi da istituzioni. La responsabile del Viminale difende comunque l'operato della Protezione Civile e aggiunge che anche la capitale dovrà dotarsi di un piano neve come le altre città del centro-nord, parole che a molti sono sembrate una sconfessione di Alemanno. Il primo cittadino però non ci sta, forse la cancellieri è stata male informata, dice. Poi, dopo aver parlato col ministro, assicura di non essere stato scaricato, quindi rilancia le accuse alla Protezione Civile. Non ci ha ancora detto con chiarezza quali sono le previsioni meteo per stanotte. Navighiamo a vista, non so se prorogare le ordinanze, fa sapere il primo cittadino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Situazione critica anche all'Aquila. Il sindaco Massimo Cialente ha disposto con un'ordinanza la requisizione del carburante nelle stazioni di servizio Eni e Agip per rifornire i mezzi antineve di soccorso che non hanno più carburante per muoversi in città. Lo ha intervistato questa mattina Katia Caramelli. La situazione è che stiamo procedendo a pulire tutte le strade di questo che è per estensione il terzo comune d'Italia, quindi 64 centri abitati, 63 frazioni, molte isolate, quindi abbiamo raggiunte tutte nel corso della notte. Le scuole sono chiuse, oggi sono chiuse anche gli uffici pubblici. Sto preparando un'ordinanza per chiudere per altri due giorni, anche perché le previsioni del tempo, domani potremo avere nuove precipitazioni tra i 20 e i 40 centimetri di neve. Quindi qui è successa una cosa veramente. Abbiamo avuto autostrada chiusa per tre giorni, le autostrade, quindi L'Aquila di fatto è stata isolata, una città isolata per tre giorni, per sì. Cui non abbiamo avuto più rifornimenti né di generi alimentari né di carburante, per cui abbiamo veramente un problema in questo momento anche di rifornire i nostri mezzi. Quindi adesso speriamo innanzitutto che arrivi carburante. Non voglio fare grandi polemiche, però è chiaro che noi siamo stati chiamati a pulire centinaia e centinaia di chilometri e abbiamo avuto l'autostrada invece chiusa per tre giorni. Questo è stato veramente un colpo terribile. Insomma, una città isolata che si sentiva dai tempi, non lo so da quanto. Intanto in tutta Italia si stanno facendo le valutazioni sul consumo di gas. La situazione è critica ma sotto controllo, fanno sapere le autorità. Oggi c'è stata una riunione al Ministero dello Sviluppo Economico. Da ieri siamo in allerta. Per oggi è previsto il picco massimo di consumo di gas mai registrato nel nostro paese, 440 milioni di metri cubi. Il tutto mentre Gazprom ha ridotto le forniture a livello europeo del 25-30%. Il peggio è passato, rende noto il colosso russo che dice di aver già rassicurato l'Italia. La Commissione europea intanto si dice pronta a valutare misure di aiuto se si rendessero necessarie. La situazione è sicuramente critica ma ben monitorata, precisa il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera e aggiunge tutti gli ulteriori step in caso di bisogno sono pronti ad essere messi in moto. Le riserve non sono ancora state utilizzate. Fino a mercoledì non ci sono problemi, ha confermato ai nostri microfoni l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni. Da giovedì l'emergenza potrebbe tradursi in distacchi per alcune aziende. Siamo in emergenza e abbiamo reagito all'emergenza aumentando le importazioni dall'Algeria e dal nord Europa attraverso la Svizzera. Quindi non abbiamo problemi fino a mercoledì. Ci stiamo preparando a momenti ancora difficili tra giovedì e venerdì prossimo. Se dovesse mancare del gas, bisognerà intervenire sugli interrompibili, cioè quelle aziende che hanno dei contratti in cui si può interrompere il flusso del gas. Tutte le iniziative vengono valutate dal Comitato per il monitoraggio dell'emergenza gas, istituito presso il Ministero dello Sviluppo con i maggiori operatori del settore. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è una notizia di poco fa che riguarda il rigassificatore di Rovigo, che trasforma gas liquido in metano al largo delle coste venete ed è fuori uso a causa del mare grosso, quindi le navi che trasportano appunto il gas liquefatto non possono al momento ormeggiare. Chiudiamo questa prima parte di GR24 con lo sport. Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo, Enrico, dal ciclismo, perché ci sono, insomma, siamo arrivati alla fine di una storia molto lunga che riguarda il doping. Sì, partiamo da questa notizia molto attesa, il verdetto su Alberto Contador, il fuoriclasse spagnolo, vincitore di Tour de France, dopo 565 giorni ha ricevuto così una condanna a 2 anni di stop e alla perdita del Tour de France 2010. In pratica il corridore spagnolo è stato ritenuto colpevole di assunzione deliberata di doping. Ricordiamo il fatto che sempre nel 2010, a quel tour di quell'anno lì, nella tappa di riposo a Pau, a Contador vennero trovate delle lievissime tracce di clenbuterolo, sostanza vietata dall'antidoping. Il corridore si era difeso dicendo che questa positività era da attribuire a un normale filetto che aveva mangiato in una trattoria. Evidentemente il filetto era un po' stagionato. Esatto. Senti, per quanto riguarda il calcio, visto che veniamo da un weekend particolare, insomma, caratterizzato da queste temperature che hanno un po' intaccato anche le partite. Sì, congelato la classifica, sì. Direi, perché le squadre di testa, Juventus e Milan, hanno frenato. I bianconeri col Siena dopo un inutile arrembaggio. I rossoneri col Napoli in un match macchiato dal famoso ormai schiaffo di Ibrahimovic. Un gesto punito con l'espulsione che ripropone il difficile carattere di questo giocatore, tanto formidabile, che però già è recidivo perché anche l'anno scorso fu protagonista di un episodio del genere, condannato a 3 giornate. Il problema adesso è capire se questo verrà ritenuto un gesto violento per far male oppure semplicemente antisportivo. Nel primo caso 3 giornate vorrebbe dire che salta la partita con la Juventus, e questo chiaramente è un problema. Anche la Juventus ha avuto un problema, perché ha protestato per un fallo di mano di un Vergassola in aria. I giocatori, i reggenti bianconeri, hanno accusato la dirigenza arbitrale di aver mandato un arbitro troppo giovane. Secondo me è sbagliato, perché allora tutte le squadre meritano rispetto, quindi non è che si può dire mandiamo uno più esperto a un altro. Sì, comunque, potrebbe dire il calcio è così. Chiudiamo con l'Inter, perché ci sono stati molti problemi a Roma per quanto riguarda la neve e il gelo. Per l'Inter Roma è stata fatale, un po' come per il sindaco alemanno. Sì. In effetti, per salvare l'Inter dagli attacchi della Roma ci voleva la protezione civile. Sepolta da 4 gol, la squadra esce senza giustificazioni, imballata, lenta, in balia di un 20enne Borini, che è autore di una fantastica doppietta e ha fatto quello che voleva della difesa interista. Per l'Inter è un brusco ritorno al passato, ma è il futuro che non promette nulla di buono. Queste le notizie principali di GR24. Un altro morto questa mattina per il freddo, situazione critica in molte zone d'Italia, oltre 40.000 case ancora senza luce. Si tratta ancora in Grecia per il salvataggio, per evitare il default, ma i mercati sono ancora prudenti, ultimatum anche dall'Unione Europea. In Siria altri attacchi sulla città di Homs, 9 vittime questa mattina. Ciclismo e doping, 2 anni di stop per Contador. Dicevamo della Grecia, poco fa è arrivato un comunicato, un portavoce della Commissione Europea ha parlato e ha detto la Grecia ha già superato la data limite che l'Unione Europea le ha dato sulla chiusura delle trattative con i creditori privati per la ristrutturazione del debito, un ritardo che non si può ignorare, dice il funzionario. E questa mattina c'è stato un incontro tra il presidente francese Sarkozy e la cancelliera tedesca Merkel, e i due hanno detto Sarkozy ha detto insieme al cancelliere: dico che i nostri amici greci devono assumersi le loro responsabilità votando le riforme su cui si sono impegnate. Allora, queste le ultime dichiarazioni, sentiamo qual è la situazione da Atene. La Grecia è in una fase confusa. Il governo Papademos dice di aver trovato un accordo nella notte di massima sulle misure di austerità necessarie ad ottenere il nuovo piano di aiuti, ma i partiti che lo sostengono fanno dei distinguo e delle precisazioni, mentre nel pomeriggio è previsto un nuovo incontro tra il Premier e i tre leader che sostengono l'esecutivo. Uno di questi, Giorgos Karatsaferis, estrema destra, ha chiesto un rimpasto di governo per fare un governo di soli tecnici, come in Italia quello di Mario Monti, per superare l'impasse. Antonis Samaras, di Neodemocrazia, partito conservatore, vuole evitare nuove misure di austerità alle pensioni e ai salari privati, perché pensa di vincere le elezioni previste per aprile. George Papandreou, l'ex primo ministro, ha ammesso che oltre al piano A, cioè altri 170 miliardi di euro per Atene, c'è anche il piano B, cioè far fallire la Grecia e buttarla fuori dall'euro. Ai greci spetta la decisione finale. Vittorio D'Arolda, Radio 24, Sole 24 Ore. Ci spostiamo in Qatar. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen e il capo di Hamas Khaled Meshaal hanno firmato questa mattina a Doha un accordo di riconciliazione secondo il quale Abu Mazen assumerà la guida di un nuovo governo di transizione fino alle prossime elezioni. In Siria si registrano nuovi e sanguinosi attacchi agli oppositori. La comunità internazionale è indignata con Damasco e l'Unione Europea prepara nuove sanzioni. L'artiglieria governativa si accanisce anche oggi sulla città di Homs, con decine di vittime in mattinata per un violento bombardamento che la televisione panaraba Al Jazeera è riuscita a mostrare in diretta. Una conferma ai timori di chi prevedeva un inasprimento degli attacchi agli oppositori dopo il veto di Russia e Cina alla risoluzione ONU che intendeva condannare la violenza del regime siriano. Come gli Stati Uniti in precedenza, l'Unione Europea ha confermato oggi l'intenzione di inasprire le sanzioni contro Damasco, mentre Cina e Russia rispondono alle critiche per il veto, l'una trincerandosi dietro al principio di non intromissione negli affari interni di altri, l'altra sostenendo la necessità di lavorare per la democrazia con il governo in carica. Fa pensare intanto la posizione ufficialmente espressa dal ministro degli esteri turco. Siamo pronti a ospitare i rifugiati siriani anche nelle nostre case, se sarà necessario, ha detto. In passato lo stesso ministro legò un'eventuale azione militare turca in Siria a una risoluzione ONU, oppure a un massiccio esodo di siriani verso il confine turco. Forse si preparano le condizioni per quell'attacco che per ora la Clinton ha escluso. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Al Cairo, in Egitto, ancora scontri nella notte tra polizia e manifestanti che protestano per la strage di mercoledì allo stadio di Porto Said, in cui hanno perso la vita 74 persone. Questa mattina sembra tornata la calma, ma il clima è teso e le forze dell'ordine hanno eretto diversi muri di cemento nelle strade che conducono al Ministero dell'Interno, accusato di non avere voluto impedire le violenze scoppiate allo stadio. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito circa 7 ore fa la regione centrale dell'arcipelago delle Filippine. Finora sono segnalate 14 vittime. La Cina ha vietato alle compagnie aeree del paese di pagare la nuova tassa sulle emissioni di anidride carbonica imposta dall'Unione Europea per tutti i vettori che atterrano in Europa. La questione va avanti da diversi mesi tra Bruxelles e Pechino, che la considera una pratica scorretta, ma la norma viene contestata anche da Stati Uniti, India e Canada. Bruxelles ha stabilito che le compagnie aeree debbano versare una tassa in base alla quantità delle loro emissioni. Le compagnie che non si adeguano potrebbero essere costrette a pagare multe salate o anche ottenere un divieto di volare nell'area europea. Dalla Cina arrivano però anche apprezzamenti per il nostro governo. Sentiamo il commento di Alberto Forchielli. La stampa cinese parla di Mario Monti in termini straordinari. Sia il People Daily, il giornale del popolo, che il giornale ufficiale del partito, che Tencent, che è il principale portale di informazione cinese, privato, che la radio cinese, che è addirittura la radio di Stato. L'intervista di Mario Monti su Financial Times è stata ripresa alla grande in cinese tutte le testate. se ne decantano le doti di grande economista internazionale, l'uomo di cui l'Italia aveva bisogno, si sottolineano anche gli aspetti personali, ma la cosa più importante secondo me è questo trafiletto finale del Giornale del Popolo che dice Mario Monti è molto proteso verso la Cina, l'ambasciatore cinese è stato il primo ambasciatore a essere ricevuto, Mario Monti è già stato in Cina come commissario europeo e lo aspettiamo in Cina presto. Un invito così esplicito a un ministro italiano erano anni che non si vedeva. È un grande segnale. Cioè, non c'è dubbio che la presenza di Monti ha rafforzato decisamente la posizione della Merkel e la posizione dell'Europa. Era il commento di Alberto Forchielli su queste notizie appunto di apprezzamento da parte della stampa cinese. Forchielli è presidente dell'Osservatorio Asia. E apprezzamenti sono arrivati questa mattina nuovamente anche dal presidente francese Sarkozy, che, come vi dicevamo poco fa, ha incontrato Angela Merkel a Parigi. Stiamo vedendo il primo ministro italiano Monti, quale lavoro notevole stia facendo e quali progressi spettacolari stia facendo l'Italia. E adesso la nostra rubrica sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Possono essere definiti mediatori finanziari abusivi e si aggirano cercando di non lasciare traccia, anzi lasciandone molte per non essere scoperti dal fisco. Hanno identità virtuali grazie a molteplici e finte residenze, usano documenti falsi per aprire conti correnti, non compaiono mai in alcuna società, maneggiano senza titolo alcuno ingenti somme di denaro ricevute da imprenditori e fingono investimenti, per esempio nel mercato dell'energia rinnovabile. Ma in realtà esportano le somme all'estero attraverso sofisticate operazioni bancarie, magari emettendo regolari fatture, dichiarando la sede dell'attività, senza però procedere alla dichiarazione al versamento dell'IVA e delle imposte sui redditi quantificabili in diversi milioni di euro, sottraendo così a tassazione tutti i redditi percepiti, anche quelli derivanti dall'utilizzo illecito delle società da loro gestite. Caso emblematico di questa mediazione sommersa è quello di un evasore totale, ufficialmente residente a Lugano, ma di fatto domiciliato in un lussuoso appartamento nel centro di Milano e per il quale veniva versato un canone annuale di locazione di 50.000 euro attraverso società fittizie. Pur essendo stato cancellato dall'albo dei mediatori finanziari da parte della Banca d'Italia, si era adoperato per procurare flussi finanziari per l'acquisto di una società poi fallita e poi per nascondere denaro all'estero. Tutto ciò gli aveva fruttato una villa con piscina e centro fitness in Sicilia, yacht, moto di grossa cilindrata e auto di lusso, tutti rigorosamente intestati a società di comodo ed esentasse. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La Mitsubishi ha annunciato la fine della produzione dei veicoli presso l'impianto in Olanda, diventando così il primo produttore giapponese a tirarsi fuori dall'Europa occidentale dallo scoppio della crisi economica. La decisione, ha spiegato la compagnia a conferma delle indiscrezioni della stampa nipponica, sarà operativa entro la fine del 2012 nell'ambito di un piano che punta a rifocalizzare le attività produttive sui mercati emergenti e a maggiore crescita come la Cina e la Russia. Abbiamo un'ultima notizia che riguarda il mondo delle banche. Tornano ben sopra i 500 miliardi depositi cosiddetti overnight che le banche parcheggiano presso la BCE, che paga un tasso dello 0,25%, dopo il record di sempre di 528 miliardi registrati a metà gennaio. Il denaro depositato dalle banche europee a quota 511 miliardi. I depositi hanno conosciuto un consistente incremento da quando l'Euro Tower a dicembre ha messo a disposizione la prima ondata di titoli triennali e, secondo gli analisti, gli elevati livelli di deposito non sono da intendere necessariamente come un indicatore di tensione del sistema finanziario, quanto piuttosto come conseguenza dell'alto livello di liquidità presente nel sistema. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Pagliarini, che vi auguro una buona giornata e un buon ascolto con i nostri programmi. Tra poco una finestra all'interno di Italia in controluce sulla situazione della neve e del gelo in Italia. E più tardi il GR torna alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.